Ragioniere, vada in ufficio e consegni il nastro registrato a Silvana. Mi prenoti l'aereo di giovedì per Milano. E fra mezz'ora torni qui con la cosa. Con che cosa, dottor? Con che cosa? La cosa, come si chiama questa? Con la macchina? Ecco, bravo, la macchina. Che voleva venire con la cosa? Perché dovrò vedere Baroncelli Guizzi? Ma, speriamo che lo sappia lui. Mario, mozzarella e succo di pomodoro, tra 15 minuti. Sì, dottore. Ti saluto, ti salvio. Voi là, come stai? Come un leone. Oggi ho soltanto 10 minuti. Alle 15 ho appuntamento con Tanzinger della Folto Colmen. Ci sei riuscito, eh? Fausti, oggi mi hanno calato l'handicap da 9 a 7. Bravo. Le già labili tracce di Oreste Sabatini vengono come cancellate dalle imponenti cascate del Duca de Braganza. Per reperire nuove e più recenti tracce di suo cognato, bisognerebbe inviare persona in loco. Ragioniere, vada in ufficio e consegni il nastro registrato a Silvana. Vada in ufficio, prenoti l'aereo di giovedì per Milano. Vada in ufficio, prenoti l'aereo di giovedì per Milano. Con che cosa, dottor? Con che cosa? La cosa, come si chiama? Con che cosa? Bravo, la macchina. Ragioniere, vada in ufficio e consegni il nastro registrato a Silvana. Vada in ufficio, prenoti l'aereo di giovedì per Milano. Vada in ufficio, prenoti l'aereo di giovedì per Milano. Con che cosa, dottor? Con che cosa? La cosa, come si chiama? Con che cosa? Bravo, la macchina. Ragioniere, vada in ufficio e consegni il nastro registrato. Con che cosa, dottor? Con che cosa? La cosa, come si chiama? Con che cosa? Bravo, la macchina. Bravo, la macchina. Bravo, la macchina. Thank you.

Mamma. Ciao, Lucy. Piccola, che bello sentirti. Ma che ore sono lì da te? Non lo so, è notte. Aspetta un secondo, fammi riagganciare sull'altra adesso linea. Dovrò entrare, ok? Eccomi. Non fai troppa bisboccia, vero? Mi hai promesso di prenderti cura di te. Ci sto provando, mamma, ci sto provando. Grazie di questa chiamata inaspettata. A tuo padre dispiacerà non averti parlato. È ancora in palestra. Di solito ci chiami di mattina. Mamma. Sì? Riesco a sentire tutto. Cosa vuoi dire, tesoro? Lo spazio. L'aria. Le vibrazioni. Le persone. Percepisco la forza di gravità. Riesco a sentire la rotazione della Terra. Il calore che esce dal mio corpo. Così come il sangue nelle mie vene. Riesco a sentire il mio cervello. A ricordare le cose più remote della mia memoria. Tesoro, la linea è disturbata, non capisco bene. Cosa dicevi a proposito della memoria? Il dolore nella mia bocca. Quando portavo l'apparecchio, io ricordo bene il tocco della tua mano sulla mia fronte quando avevo la febbre. Ricordo quando accarezzavo il gatto, era così morbido. Il gatto? Quale gatto, tesoro? Un siamese con gli occhi blu e la coda mozza. Tesoro, non te lo puoi assolutamente ricordare, avevi appena un anno. Mi ricordo il sapore del tuo latte nella mia bocca. La pancia. Il liquido. Tesoro, cosa stai dicendo? Volevo solo dirti che ti voglio bene, anche a papà. Tesoro. E ti voglio ringraziare per i tuoi 1000 baci che posso ancora sentire sul mio viso. Ti voglio bene, mamma. Anch'io ti voglio bene, tesoro. Più di ogni altra cosa al mondo. Riesco a sentire il mio cervello. Il calore che esce dal mio corpo. Così come il sangue nelle mie vene. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Le vibrazioni. A ricordare le cose più remote della mia memoria. Riesco a sentire il mio cervello. Riesco a sentire il mio cervello. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. Percepisco la forza di gravità. We'll be right back.

Le mie cellule si stanno riproducendo a una velocità straordinaria, svariati milioni al secondo. Ho difficoltà a stabilire il momento esatto della mia morte, ma dubito che vivrò più di 24 ore. Di che cosa sta parlando? Quello che sto dicendo è che la sua teoria non è una teoria. Io ho assorbito CPH4 sintetico che mi permetterà di usare il 100% delle mie capacità cerebrali. Ora sono al 28%. E quello che lei ha scritto è vero. Quando il cervello raggiunge il 100% si rivela, si espande, non esistono più ostacoli. Cadono come le tessere del domino. Sto colonizzando il mio cervello. Ecco, io non so cosa dire. È vero, in effetti ho lavorato a questa teoria per più di 20 anni, ma è solo... sono sempre state ipotesi e materia di ricerca. Io non ho mai pensato che qualcuno potesse... Può controllare il suo metabolismo? Sì. E comincio a poter controllare il corpo di altre persone. Inoltre posso controllare le onde magnetiche ed elettriche. Non tutte, solo le più semplici. La televisione. Il telefono. La radio. È incredibile. Non provo dolore. Paura. Desiderio. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. È come se meno umana mi sento, più questo grande sapere su ogni cosa, fisica quantistica, matematica applicata, le potenzialità del nucleo di una cellula, tutto esplodesse dentro al mio cervello, tutta questa conoscenza. Non so che cosa farne. Se sta chiedendo a me che cosa farne, io... Ecco... Se pensa all'essenza della vita, voglio dire, dall'inizio, dai primordi, allo sviluppo della prima cellula che si è divisa in due cellule. L'unico scopo della vita è sempre stato tramandare quello che è stato appreso. Non c'è mai stato scopo più elevato. Perciò se mi chiede cosa deve fare con tutto questo sapere che sta accumulando, io direi di tramandarlo. Così come ogni semplice cellula ha sempre fatto nel tempo. Tempo. Sì, certo. Sarò alla sua porta tra 12 ore. Non provo dolore. Paura. Desiderio. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. Desiderio. Paura. Desiderio. Paura. Desiderio. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. Desiderio. Desiderio. Non provo dolore. Paura. Desiderio. Paura. Desiderio. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. Paura. Paura. Desiderio. Non provo dolore. Paura. È come se tutto quello che ci rende umani stesse svanendo. L'unico scopo della vita è sempre stato tramandare quello che è stato appreso. Yeah. Ciao papà, io esco. Mi pare giusto, è mezzanotte. Ciao John. Buonasera dottore, ci sta sua cognata. Buonasera, oh guarda chi c'è, Marisa. Ciao. Meno male che sei arrivato. Marisa, smettila di bere, per cortesia. E allora, visto che le tracce di mio marito si perdono a Tumbué... Visto che le tracce di mio marito si perdono a Tumbué, ci mettiamo una pietra sopra, hm? Che facciamo? Mi metto in lutto? Marisa, sei fissata. Vuoi proprio che sia morto? Invieremo persone in loco, va bene? Abbiamo speso 5, spenderemo 10. Sì, sì. Non dovevamo lasciarlo partire. Non dovevamo lasciarlo partire. Ma con chi te la prendi? Non dovevamo. È lui che ha voluto partire per forza. Colpa vostra. Senti, Qui a Roma era un pesce fuor d'acqua, perché avete fatto diventare questa città una schifezza. L'avete fatto scappare, l'avete, vigliacchi che siete. Giungla per giungla, meglio quella vera. Qui si sentiva frustrato, insicuro, sottovalutato. Basta. Non era mica come Fausto. Perché io come sono? Tu sei diverso. Sei qui a casa tua, con tua moglie, tuo figlio. Sei ricco, felice. Sei arrivato. Mentre Titino, poverino... Tua sorella ha detto Titino poverino. Ho sentito bene? Titino poverino ha detto. E io ho rotto un fiasco. Sì! Sì! Mondaccio maledettissimo! I poverini non sono quelli che sono andati via, ma quelli che sono rimasti qui davanti a voi, coi pezzetti di vetro nella mano. Ti sei fatto male, fa vedere. Sì, no! Mi sono fatto malissimo, ma non ti faccio vedere. Qui si muore! Sono un leone! Qui muoiono anche i leoni! Ma quale poverino! Quello ha conosciuto i silenzi dei grandi fiumi! Io invece conosco solo lo stridio delle vostre voci irritanti! Corna, vacca, latte, mozzarella! Io sono stufo delle mozzarelle! E sono stufo anche di voi, va bene? Fausto, calmati! John, ma non ci John! Accorgiamo! In mezzo a chi viviamo? Giochi a golf, fai il weekend, sulla barca, io do un party, tu fai un cocktail, Joe, un drink pure a me, l'animaccia di Noè, applausi, sei pure te, Joe, vieni qua, eccolo Joe, questo è Joe, ma come questo è Barese, perché lo chiami Joe? Già me a sede, siete lì, hai un figlio, sì, certo, un figlio, ma che è un figlio quello? Quello è un passante, tutto biondo, mandala! Senti Rita, vieni qui, guardami bene, mi vedi? Vedi questo volto? Questa volta ha dato il via alla serie I grandi amori d'oggi, da Jacqueline a Sandrocchia, va bene? Ormai ho le idee chiare, sai. La persona in loco sono io! Il povero Titino lo vado a cercare io! In Africa ci vado io! In mezzo a chi viviamo? Giochi a golf, fai il weekend, sulla barca, io do un party, tu fai un cocktail, già un drink pure a me! L'animaccia di Noè! Io do un party, tu fai un cocktail! In Africa ci vado io! Io do un party, tu fai un cocktail! In Africa ci vado io! Io do un party, tu fai un cocktail! In Africa ci vado io! Io do un party, tu fai un cocktail! In Africa ci vado io! Io do un party, tu fai un cocktail! In Africa ci vado io! Ciao! Let me hear it.

quacca quacca. Mangas na guacas. Maninia guacit. Pandar gaingar. Pandar gaingar. Pandar gaingar. Pandar gaingar. Kanaya ay. Kanaya ay. Kanaya ay. Abbiamo dovuto aspettare 400.000 anni per assistere alla mutazione delle prime cellule nervose. Da qui comincia la vita come la conosciamo. Cervelli in formazione di appena qualche milligrammo. Non è ancora possibile determinare in essi alcun segno di intelligenza. Agiscono più come un riflesso. Un neurone, allora sei vivo. Due neuroni, puoi muoverti. E con il movimento, cose interessanti cominciano ad accadere. La vita animale sulla Terra risale a milioni di anni fa ma la maggior parte delle specie usa solo dal 3 al 5% delle sue capacità cerebrali. Ma è soltanto quando arriviamo agli esseri umani, in cima alla piramide animale, che vediamo finalmente una specie usare maggiormente le sue capacità cerebrali. Il 10% può sembrare poco, ma è tanto se pensiamo a cosa abbiamo fatto con esso. Ora, prendiamo un caso specifico. L'unico essere vivente che usa il suo cervello molto meglio di noi. Il delfino. Si ritiene che questo incredibile animale usi fino al 20% delle sue capacità cerebrali. In particolare, questo gli consente di avvalersi di un sistema di ecolocazione che è più efficace di qualsiasi sonar inventato dall'essere umano. Ma il delfino non ha inventato il sonar, lo ha sviluppato naturalmente. E questo è il punto cruciale della nostra riflessione filosofica di questa giornata. Possiamo quindi concludere che gli umani sono interessati all'avere più che all'essere? Per gli esseri primitivi come noi, la vita sembra avere un solo, unico scopo: guadagnare tempo. E sopravvivere nel tempo sembra anche essere l'unico vero scopo di ciascuna delle cellule dei nostri corpi. Per raggiungere tale obiettivo, la massa di cellule che compone i lombrichi e gli esseri umani ha solo due soluzioni: essere immortale o riprodursi. Se l'habitat non è sufficientemente favorevole o nutritivo, la cellula sceglierà l'immortalità. In altre parole, l'autosufficienza e l'autogestione. Al contrario, se l'habitat è abbastanza favorevole, allora sceglierà di riprodursi. In questa maniera, quando muore, trasmetterà informazioni essenziali e conoscenza alla cellula successiva, che le trasmetterà a quella successiva e così via. Quindi il sapere e l'apprendimento vengono trasmessi nel tempo. Immaginiamo per un momento come sarebbe la nostra vita se avessimo accesso, diciamo, al 20% delle nostre capacità cerebrali. Questo primo stadio ci potrebbe dare la possibilità di avere il controllo completo del nostro corpo. Professore? Sì? È dimostrato scientificamente? Per il momento sono solamente ipotesi, lo confesso. Ma se ci riflettete, è davvero sconcertante pensare che i greci, gli egiziani e gli indiani sapessero dell'esistenza delle cellule secoli prima dell'invenzione del microscopio. E che dire a proposito di Darwin, che tutti presero per matto quando presentò la sua teoria dell'evoluzione? Sta a noi provare ad andare oltre le regole e le leggi e passare dall'evoluzione alla rivoluzione. 100 miliardi di neuroni per essere umano, di cui soltanto il 15% è attivo. Vi sono più connessioni in un corpo umano di quante stelle ci sono in una galassia. Noi possediamo una rete gigantesca di informazioni a cui non abbiamo quasi nessun accesso. Professore? Sì? Quale sarebbe lo stadio successivo? Lo stadio successivo sarebbe probabilmente il controllo di altre persone. Ma per questo dovremmo accedere ad almeno il 40% delle nostre capacità cerebrali. Dopo il controllo di noi stessi e di altri, ci sarebbe il controllo della materia. Ma adesso stiamo entrando nel regno della fantascienza. E ne sappiamo tanto quanto un cane che guarda la luna. Mi scusi, professore? Sì? Ma che accadrebbe se, per una ragione a noi sconosciuta, qualcuno sbloccasse il 100% delle sue capacità cerebrali? Ha detto il 100%? Sì. Io non ne ho idea. Ia mbe. Se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero? Zihuatanejo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Veda, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me. Fortenco, Texas, per favore. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. L'ignoranza porta il caos, non la conoscenza.